Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Natasha, amare è soffrire. Se non si vuol soffrire, non si deve amare. Però allora si soffre di non amare. Pertanto, amare è soffrire, non amare è soffrire, e soffrire è soffrire. Essere felice è amare. Allora essere felice è soffrire, ma soffrire ci rende infelici, pertanto per essere infelici si deve amare, o amare il soffrire, o soffrire per troppa felicità. Io spero che tu prenda appunti. Io non voglio mai sposarmi, io voglio solamente divorziare. Buongiorno, buongiorno. Oggi si parla di amore e sofferenza o di soffrire e di amare, insomma dipende dai punti di vista. Parliamo di relazioni che rischiano di finire, di matrimoni inossidabili durante il resto dell'anno, ma che poi in estate, in agosto, sfiorano addirittura il divorzio. Parliamo di come in estate aumenti la tentazione di mettere fine appunto o all'amore o alla sofferenza, dipende dai punti di vista. E le tecniche di sopravvivenza di oggi sono dedicate a quelle coppie che in vacanza scoprono che non si sopportano più. E questo accade perché negli 11 mesi dell'anno ci si vede solo alla sera, qualche ora, perché si lavora e quindi ci si vede per la cena, poi si va a letto e poi si ricomincia il giorno dopo e si va a lavorare e così via. Mentre in vacanza ci si deve stare addosso 24 ore su 24 e il rischio è veramente quello di scoprire che siamo partiti con uno sconosciuto o con una sconosciuta. Non è la stessa o lo stesso che abbiamo sposato. E fermati! Ma che fai, piangi? Ma figurati. Va bene, piango, sei contento? Via, forza! È perché l'ho detto che non mi piace quando dice carinissimo. Direi di sì. Ma dove va? Con quel tono odioso, guarda. Ma che tono? Mi sembri il mio professore di arte greco, sei un incubo. Ma tu sei una pazza. E tu sei un fascista. Va bene, allora sappi che non mi piace neanche quando dici che un'insalata di pomodori è simpatica, che un succo di frutta è geniale, che un alimentario è pazzesco, è un film è scomodo, va bene? E allora sai cosa si fa? Quando si deve parlare con lui si consulterà lo zigaretto. No, basta che provi a invertire. Perché un alimentare può essere scomodo, un film geniale e un'insalata di pomodoro può essere buona, cattiva, fresca, marcia. Ma pazzesca no, e nemmeno simpatica, hai capito? Stronzo, vai. Ecco, questa è un'espressione figurata corretta. Magari un po' volgare, ma non c'è bisticcio lessicale, nemmeno altezza semantica. Sandro. Che c'è? Sandro. Sì. Mamma è molto ignorante. No, è solamente un po' permalosa. Di solito si litiga anche per le sciocchezze, ci si infastidisce per nulla, una parola sbagliata, una frase, un atteggiamento. Sono appunto le piccolezze, quelle manie, quei particolari, quei tic che ci sembrano impossibili, inaccettabili, insormontabili. E così, durante la vacanza si pensa magari anche alla soluzione estrema, a farla finita. Raccontateci le vostre storie all'800 24 00 24, le vostre vacanze da incubo, quelle dove lui o lei vi sembrano scomodi, fastidiosi, insopportabili. O i vostri messaggi al 349-238-6666. Quella volta che avete rischiato di far scoppiare veramente il disastro perché non vi sopportavate più in vacanza. E quindi come una vacanza, quella di quest'anno, quella dell'anno scorso, quella di tanti anni fa, insomma vi ha segnato in senso negativo ovviamente, o come siete riusciti magari a trovare la vostra tecnica di sopravvivenza e a sopravvivere. Perché Confucio dice, dare più valore allo sforzo che alla ricompensa, questo si chiama amore. Quindi qual è stato il vostro sforzo o lo sforzo di lei o di lui con cui eravate in vacanza, come ve la siete cavata? 349 238 6666 per i vostri messaggi o 800 24 0024 per parlare con noi in diretta. Io penso che non dovremmo vederci più. Perché? Mi dispiace. Perché? Come mai? È che per me manca qualcosa e non so cos'è. Non come so sarebbe cos'è. Qualcosa? Qualcosa che manca a me? Sì. Sì, ma cosa? Che cosa? Io non puoi dirmelo quello che mi manca. Beh, no, prova a farmi delle domande, può venire fuori. Non so. Ma io che domande posso farti? Ti manca qualcosa? Che può essere? Non so la personalità, la bellezza, cose del genere? No. O non sono intelligente? No. Non sarà perché non sono alto? No. Beh, non ha a che fare con l'altezza, non sei, no? No, non c'entra niente col fatto che sei basso. Non c'entra per la carie, col fatto che non sei molto non sarà intelligente. Per la carie. No, non c'entra neanche allora. Col fatto che non hai i denti in ordine. Ma tu ti diverti insieme a me, ma non è questo, non è perché non mi diverta con te quando sono con te. Spesso si ride, a volte certe sì, risate che sì. Non mi dire che non si ride. No, non è per il ridere o per il non ridere. Un sacco, io almeno ho riso tanto. È che se a volte non ridevi tu, me ne accorgevo e smettevo anch'io. Manca qualcosa e basta. Ma cosa manca? Non la puoi nostra specificarlo, è una cosa che scusa. Non porta niente. Ma dove vorresti che ti portasse? Manca sempre qualcosa. Beh, Woody Allen ci fornisce un sacco di spunti su rapporti interpersonali, rapporti di coppia. Sì, manca sempre qualcosa, anche se per far funzionare un rapporto gli ingredienti che non possono mancare sono stati addirittura stabiliti da uno studio condotto da Tara Parker Pope, blogger e giornalista del New York Times, studio che si chiama For Better, The Science of a Good Marriage, quindi la scienza di un buon matrimonio, e dice che le coppie che durano a lungo hanno almeno 5 interazioni positive al giorno, come non so, il sorridersi, il farsi un complimento, l'accarezzarsi, contro una negativa. Quindi 5 situazioni positive al giorno contro una negativa, come l'essere insofferente o maldisposto, eccetera. E addirittura il modo in cui si litiga può influire sulla relazione, sulla durata della relazione. I primi 3 minuti di discussione, quindi attenzione quando vi mettete a discutere, perché i primi 3 minuti possono determinare le conseguenze che le vostre litigate avranno sul vostro rapporto. E addirittura una critica è peggio di una lamentela. Voglio dire che, beh, io ti amo, tu ami me, non ti basta, scusa. No, non è perché io non ti amo. Ma allora mi ami? No, io no. Appunto, dico. Ma non è questa la ragione, è qualcosa che manca. Io voglio un uomo molto forte. C'è comunicazione, no? Un capo. Ma io sono forte, sono un capo, te lo giuro, io ho tutte le qualità del comando. Io mi interesso a tante cose politiche, vitali, a tante... Anch'io. Io voglio andare a lavorare per i pigmei in Africa. Beh, ma... Io voglio lavorare per i lebbrosi in un lebbrosario, non credo. Anch'io, perfetto. No, per me va benone, voglio dire, io amo la lebbra. Io sono portata... Mi piace la lebbra, mi piace il colera e tutte le principali malattie della pelle. Invece tu... No, va bene, sei immaturo, figlio. Immaturo? Emotivamente, sessualmente e mentalmente. Sì, ma tutto il resto. Tutto il resto. Quante volte ve lo siete sentiti dire che siete immaturi? Questo di solito capita, è vero, sempre ai maschietti. Ma che cosa c'è di diverso in una coppia che funziona? Una coppia che supera tutto quello che succede appunto in agosto o anche durante il resto dell'anno? Quali sono le tecniche di sopravvivenza per chi ce la fa a superare la vacanza senza accoltellare l'altro? La scienza scomoda addirittura il DNA, sembra che ci sia un gene responsabile della coppia che funziona. Molti credono che sia la fedeltà il vero segreto, quasi tutti sostengono che una buona intesa sessuale possa far la differenza. Ma raccontateci le vostre storie che non avete fatto saltare in vacanza, all'800 24 0024 per parlare in diretta con noi, o i vostri messaggi al 349 238 6666. Cosa è successo quella volta che siete riusciti a non mollarlo in malo modo proprio in vacanza? Perché, come si diceva, la vacanza è il momento in cui si passa tanto tempo insieme, giornate che sembrano infinite, perché durante il resto dell'anno ci si vede solo per un caffè, ci si vede solo per la cena, ma in vacanza ci si sta addosso 24 ore su 24. E visto che l'argomento è, diciamo, tragico ma anche tragicomico, abbiamo pensato di sdrammatizzare un po' e ne parliamo con Dario Cassini, che in controtendenza si è fidanzato proprio in estate. Ciao Dario. Aiuto, sono io quello che si è fidanzato. Sei tu, così mi hanno detto. Mi hanno detto che sei un esperto di coppie che scoppiano. Sono l'unico che viaggia contromano sull'autostrada del sentimento. Sì. È per questo che trovo tutto libero sulla Salerno-Reggio Calabria. Vedi, l'unico che va contromano. Partenza intelligente la tua, più di così. Beh, se uno si fidanza è intelligente per forza. Poi sentivo nella tua intro, come noi diciamo al cinema e in televisione, nel tuo stand-up, che in realtà avviene proprio questo, che la gente che si saluta al mattino per un caffè e si rivede alla cena per litigare, in realtà magari sarà insieme da 20 anni, ma si frequenta attivamente 2 ore al giorno, quindi sono 14 ore alla settimana. Quando ne passi 24 al giorno sempre diventa un po' traumatico, soprattutto perché poi voi ragazze, io mi riferisco agli uomini che ci ascoltano su Radio 24, sempre una delle mie preferite. Fantastico. No, in realtà succede questo, che appunto mentre senti i rumori di piatti, perché chi sparecchia di solito è la mia fidanzata, ma in questo caso sono dalla mia amica Rita Calisti, che comunque è sempre una donna, a chiacchierare di queste cose sentimentali. Il problema reale durante l'estate è che noi uomini siamo molto possessivi. Io mi riferisco a quelli che hanno una fidanzata, una moglie, un amante, i più fortunati ce l'hanno anche tutte e tre insieme, ma sono economicamente rovinati, puoi capire, perché sono 3 famiglie incrociate nelle quali paghi sempre il conto solo tu. Già, ma e poi dico, portarle tutte in vacanza. È grave alla gelosia del maschio, perché la gelosia del maschio si divide in gelosia, gelosia grave ed omicidio pretero intenzionale, sono solo tre passi, quindi quando la femmina italiana decide di mettersi in topless, l'uomo italiano ha ragione ad essere arrabbiato, l'affronta e glielo dice: tesoro, perché tutti gli altri ti devono guardare gratis quando io pago tutto l'anno? Rido anche se non dovrei, visto che insomma mi sento un po', ma più che per il topless, perché hai detto una cosa sulle povere donne, cioè pago, cosa pago? Quali povere donne? Guarda, se vuoi sentire parlare di povere donne, tra 10 giorni da oggi, il 28, sai dove devi venirmi a vedere? Sì. Dove devi venirmi a vedere? All'ombra del Colosseo. A Roma sarà l'ultima replica di uno spettacolo straordinario, non straordinario perché l'abbia scritto o l'abbia interpretato, ma straordinario per il coinvolgimento. Quindi, dato che voi state affrontando questo agosto complicato, venitevi a sentire un consolatore, che ci vediamo tutti insieme il 28 all'ombra del Colosseo. Beh, ma il consolador, fra l'altro, in spagnolo vuol dire qualcos'altro, lo sai? Sì, è una cosa che dita. Pensavi di farmi preparato? Hai visto. Vabbè, io le cose le so. Lo so che le sai. E ti abbiamo chiamato per questo. Allora, crisi di coppia. Dimmi una tecnica. Sono caldissimo. Tecnica di sopravvivenza. Dai, per le coppie che in questo momento. Tecnica di sopravvivenza sentimentale. Cito due grandi amici storici: Fabrizio Cappella, giornalista di Repubblica, e Danilo Pao, produttore di Per Assoluto, i quali hanno, nonostante delle fidanzate impossibili, hanno dei rapporti che vanno avanti da anni. E Fabrizio mi spiega una teoria, Danilo musicalmente me ne spiega un altro. Il giornalista mi dice, giustamente, quando parli con tua moglie o la tua fidanzata, lei parla, tu sorridi così sembra che ascolti, dopodiché carpisci una parola e un verbo ogni due frasi, quando lei ti guarda in attesa di una risposta, somma gli elementi che hai, se significano qualcosa rispondi, altrimenti continua a sorridere. Fantastico. E questa è un'ottima tecnica di sopravvivenza. Direi di sì. La seconda, quella di Danilo Pao, che essendo musicista, ripeto, produttore musicale di successo, la vira sulla musica. Lui dice: io schiaccio un sensore nel mio orecchio, mi si viene a formare uno schermo davanti agli occhi per il quale io vedo lei che si muove e si agita, ma la vedo e basta, mentre all'interno del mio cervello scelgo la mia playlist. Anche questo è molto bello. Capisci? È vero. La verità è questa. La verità è che le donne amano litigare, anche tu Morena, ma adori sì. Litigare, più forti di voi. Ma no, ma perché litigare? Perché devi chiamarlo litigare? Il nostro è la voglia del confronto, cos'è litigare? Ma confronto questa ceppettina, è proprio la litigata. La cosa più bella è che voi ragazze siete talmente autonome dal punto di vista della litigata che non avete più bisogno di noi per odiarci. Ma sì, ma tra un po' sarete anche in estinzione voi. A cosa ci servite? Ma dimentica questa cosa della cerchia che si riproduce da sola. Ha voglia di riprodurti da sola, ti vuoi riprodurre da sola? Bene, ma quella mezz'oretta di godimento poi ti manca. Mezz'oretta, perché sei stato anche bravo, mezz'oretta. Va bene, grazie mille, Dario. Ah, sono stato bravo, mezz'oretta. Ciao, ci vediamo. Volevo dire un'altra cosa, ma la dirò alla prossima intervista. Ci vediamo il 28, magari dici il 28 allora, all'ombra del Colosseo. Ciao Dario, grazie. Ciao Morena, grazie a te. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di relazione di coppia, di coppie che scoppiano in estate. 800 24 0024 per raccontarci le vostre storie estive, quelle che hanno rischiato di finire male o insomma quelle che siete riusciti a salvare in qualche modo, e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Le migliori litigate con la mia fidanzata le ho combattute nel periodo estivo. Sembra che con il caldo, l'ozio, i difetti si amplificano, ma dopo 4 estati le cose stanno migliorando. Vacanze separate. Oppure un altro messaggio dice: rimedio, una settimana insieme e una da soli, lo facciamo da 15 anni, ma lei è spagnola ed è quasi una scelta obbligata con la sua famiglia lì. Quindi quali sono le vostre storie di vacanze che magari sono andate, si sono trasformate in un incubo perché eravate tutto il giorno al fianco della vostra fidanzata, del vostro fidanzato, che o marito o moglie, insomma compagno o compagna, che ad un certo punto vi sembrava uno sconosciuto, faceva delle cose che vi sembravano veramente impossibili da gestire. E quindi quali sono le tecniche che avete adottato per non far finire magari in tragedia la vostra vacanza? In India c'è un'agenzia turistica a Mumbai che sostiene che per superare una crisi di coppia la soluzione sia proprio prendersi una vacanza, ma non prendersi una vacanza dall'altro, ma andare in vacanza. E loro offrono un pacchetto speciale che si chiama Divorce Tourism. Le coppie che stanno per separarsi sono aiutate dal team di professionisti per pianificare il loro viaggio salva matrimonio. L'offerta prevede anche di portarsi amici e parenti delle coppie in crisi che magari possono dare una mano ai loro cari per sistemare il rapporto. Insomma, tutti insieme si può cercare di capire come trovare una via di uscita costruttiva che non sia la separazione. Ma se invece non c'è più nulla da fare, si vuole a tutti i costi divorziare, vabbè, per rendere il divorzio meno tragico, adesso c'è alla FNAC c'è la lista di divorzio. È una sorta di lista di nozze, come se fosse una lista di nozze, solo che è per il divorzio, ed serve a ricostruire ciò che è andato perso o andrà perso nel corso della separazione di una coppia. Beh, non devono essere necessariamente aperte queste liste di divorzio da chi sta divorziando, possono veramente essere gli amici o i parenti che decidono di aiutare. E la FNAC, per rendere ancora meno traumatica la separazione, contribuisce con il 5% del valore totale della lista. Sarà più facile dirsi addio? E 25 agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si sta occupando della coppia che scoppia in estate. 800 24 00 24 per prenotarvi, per parlare con noi e raccontarci della vostra vacanza che magari si è trasformata in un incubo perché eravate con vostra moglie o la vostra fidanzata e non la sopportavate più, oppure i vostri messaggi al 349 238 6666. Ma abbiamo anche un indirizzo mail qualora voleste scriverci un racconto. agosto@radio24.it. Quindi quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza per non far scoppiare la vostra coppia? Portarla, per esempio, o portarlo, dipende appunto da che parte sta l'insofferenza, nel ristorante giusto può essere la soluzione? Cucinare per lei o per lui qualcosa di speciale può servire? Ma ne parliamo con Filippo Lamantia, che è un grande cuoco ma è anche un grande conoscitore dell'universo femminile. Ciao Filippo. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Beh, allora, che cosa ci puoi dire a proposito? Sì, direi di sì. Al di là del clima. Esatto, ma ti è capitato, visto che tu hai anche un occhio di riguardo, avendo sì, un ristorante e vedendo sì, molte coppie che vengono a cena da te? Per me è un lavoro incredibile, praticamente nutrirle, ma che soprattutto andare praticamente a scavare dentro ma le loro situazioni, perché a volte vedi delle coppie che parlano in maniera carina, altre invece alcune mute. Ah. E allora lì praticamente il cuoco deve intuire, andare al tavolo, iniziare a parlare con lui, mai con lei, perché altrimenti lui ovviamente si incavola, e poi praticamente quando è spezzata una tensione inizi praticamente a fare delle come dire, che a dare dei consigli anche a lei. Certo. Su cosa mangiare, cosa prendere, poi iniziare a parlare, cose varie. Perché... E poi sparisci però. Quindi devi proprio essere chirurgico. Arrivi, esatto, arrivi e cerchi di risolvere la situazione. Esatto. Ma ti capita spesso di vedere delle coppie appunto che sono in crisi? Sì, guarda, tantissime volte, anche che ieri sera, poi io ho una terrazza straordinaria al ristorante, quindi praticamente a volte sono tante coppie che vengono qui all'inizio, guarda che sono straordinariamente unite, poi guarda che iniziano a litigare pure, c'è gente che va via improvvisamente. Oh mio Dio, anche. Sì, ma succedono, ma, è ovvio. Ma ti capita di consigliare magari di scegliere un piatto piuttosto sempre, che un altro? Ah, ok, sì, proprio perché sì, li vedi. Sempre, perché a volte c'è la lei che colpevolizza lui ma di non consigliarla bene, quindi succede praticamente che io che mi trovo in imbarazzo a fare un pochettino il professore, capito? Quindi allora cerco di capire a lui che cosa piace e conseguentemente che cosa, ma che gli piace pure di cucinare a casa, in maniera che praticamente poi c'è il piatto per lei. Ah, giusto. Quindi io do a lui degli input praticamente in importanti. Certo, certo. Sì. Ma allora, tra le coppie famose, visto che tu sei un po' il cuoco dei VIP, tra le coppie famose... questa cosa la odio. Quindi non diciamolo, visto che nel tuo ristorante vengono anche delle persone famose. Vengono tutti. Esatto, vengono tutti, ma anche delle persone famose. Tra questi ci sono, mi sembra di ricordare, George Clooney e Elisabetta Canalis. Allora, sì, coppia... anche l'anno scorso, dicono che sia scoccata qui la fiamma dell'amore. Ecco, vedi, vedi. Sì. Quindi il ristorante può riservare anche questi... E lui, io mi ricordo che quella sera, tra l'altro lui carinissimo, perché ovviamente era una serata strapiena, ha salutato tutti e tutte, ovviamente c'erano le donne che sboccheggiavano, perché è entrato improvvisamente con quel suo sorrisone da ragazzotto. Mamma mia. E ha mangiato un sacco di paste. Ecco. Cioè, guarda che si è fatto 5 paste differenti. Ah però. Sì, divertente. Via, molto divertente. Quindi paste, intendi... ha dato le soddisfazioni. Ma quindi carboidrati per quel giorno. Carboidrati l'ho usato più, ma lui non solo può permettere. Certo. Allora, la tua tecnica di sopravvivenza, per esempio, alle persone che in estate, appunto, come dicevamo, magari sono un po' lì, insomma, la coppia non sì. sentono che scricchiola, che cosa si può fare? Ma non è che la coppia scricchiola, anche io, per esempio, faccio una vita assurda perché esco la mattina molto presto e rientro la notte molto tardi, quindi praticamente a mia moglie io praticamente che non la vedo quasi mai. E allora che succede? Che l'estate, quei 25 giorni di vacanza, devono assolutamente servire a ricostruire un'intimità, l'intimità anche praticamente di andare in giro per fare una spesuccia, andare a comprare i prodotti, quindi che ne so, mettiamo caso, affittiamo una casa al mare dove c'è ovviamente una cucina, che far sì che praticamente il rito della cucina unisce la famiglia. Certo. Quindi perché no? Perché no? Che andiamo a comprare allora il pomodoro, che questa è la stagione del pomodoro, del basilico, e insieme in cucina facciamo praticamente per 4 ore il sugo. Ah. Quindi siamo lì insieme a rimescolarlo, a organizzargli poi una ricetta insieme, a invitare magari che 2 o 3 persone intime, capito? Però è importante in cucina praticamente che ristabilire l'intimità. Mi piace come tecnica di sopravvivenza. Sì, beh, sì. Filippo, grazie mille, spero che sia servito anche a chi ci sta ascoltando. Ma grazie a voi. Buona estate. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di relazione di coppia, di amore e sofferenza, di andare in vacanza con una persona che ci sembra uno sconosciuto o una sconosciuta, perché durante l'anno la vediamo poco, ma in vacanza ce l'abbiamo vicino tutto il giorno. 800 24 0024 per parlare con noi, o 349 238 6666 per i vostri SMS. Carlo da Genova mi scrive: vale per tutto l'anno. Cosa si deve fare quando la tua donna ti dice fai quello che vuoi? Oppure un altro SMS molto divertente è: meno male che qualche coppia scoppia in estate, altrimenti noi soli d'estate come sopravviveremmo? Siamo qui per consolare. Tecnica di sopravvivenza. Abbiamo anche un ascoltatore, Alessandro da Roma. Ciao Alessandro. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao, buona giornata a te. Allora, la tua storia di relazione d'estate che non funziona. Sì, la mia storia è una storia un po' particolare, breve ma intensa. Io sono partito per le vacanze con la mia ragazza, ex. Ma ex, è ex ragazza? Sì, era una vacanza di un paio di settimane in Croazia, siamo partiti in macchina e raggiungevamo dei conoscenti. Uh-huh. E la terza settimana invece avremmo dovuto passarla in Italia, in altro modo. E finita la prima settimana io sono a Roma. Cioè, l'hai lasciata là? L'ho lasciata lì. No, era proprio, non so, non si poteva fare niente? Non c'erano tecniche di sopravvivenza possibili? La fuga era la miglior tecnica di sopravvivenza? Sì, in questo caso purtroppo sì, colpa di un pallanuotista. Ah, il terzo incomodo, porco Giuda. Ma senti, ma è successo quest'anno o è successo anni fa? No, è successo adesso, nel senso, allora ti spiego. L'altro anno lei era stata in vacanza nello stesso posto con un altro ragazzo e mi raccontava della gelosia ingiustificata di questo suo ragazzo per questo pallanuotista croato. Ah, sempre lo stesso? Come? Sempre lo stesso? Sempre lo stesso pallanuotista? Ah, ok. Sì. E niente, è successo che una serata in gruppo lei ha alzato un pochettino il gomito. Alessandro. Gli ha fatto delle avanze incredibili davanti ai miei occhi. Cioè lei a lui? Lei a lui. Ma è stato divertente, io mi sono goduto la scena all'inizio, perché inizialmente è iniziata che lei lo seguiva fisicamente, perché lui è un bravo ragazzo, cioè da quello che ho potuto vedere io è una persona molto corretta. Infatti si cercava quanto possibile di evitarla. E quindi vedevo lei che gli si spostava e gli andava dietro come un cagnolino. E poi ho visto altre scene, tipo carezzine, sussurri all'orecchio e platealmente alla fine carezze sulla coscia davanti ai miei occhi. No. Lei era stato simpatico perché si girava costantemente verso di me per capire dove io stessi guardando. Ma perché ti stava mettendo alla prova? Dici? Non lo so. No. Non lo so, però bella esperienza, Alessandro. Sì, abbastanza traumatica. Purtroppo ho fatto l'errore di partire con una persona che non conoscevo, perché comunque la frequentavo da un mesetto. Ah, vabbè, vabbè, capita. Quindi sconsiglio tutti gli ascoltatori di impegnarsi 3 settimane d'estate con persone semi sconosciute, perché si rischia di rimanere un attimo spiazzati. Infatti le prossime 2 settimane io le passerò a Roma. Fantastico, per fortuna c'è vedi. Ancora qualche amico in giro. Benissimo, la tua tecnica di sopravvivenza allora è tornare a casa e rifarti la vita quotidiana, insomma, a casa senza sì, andare. Diciamo, una volta realizzato di trovarsi in una situazione non buona, certo, una tecnica di sopravvivenza veramente, comunque sarebbe finita malissimo. Grazie mille, grazie Alessandro. Prego. Ciao. Adesso invece abbiamo Alessio. Buongiorno. Ciao Alessio, buongiorno. Allora, volevo raccontare anch'io la mia storia brevemente. Sì. Noi eravamo una coppia, diciamo, in crisi, abbastanza in crisi, ci stavamo per lasciare prima delle vacanze. Noi siamo abbastanza giovani, abbiamo 25 anni, ma stiamo insieme da 6 anni, conviviamo da 6 anni. Ah. E niente, siamo partiti per questa vacanza, tra l'altro una vacanza abbastanza difficile, perché siamo andati in macchina fino a Barcellona, poi ci siamo imbarcati per andare a Ibiza, che già è un'isola che ti mette alla prova come coppia. Sì. E invece, tra l'altro, a Ibiza abbiamo fatto anche campeggio, per cui difficoltà nella difficoltà. Invece devo dire che siamo tornati, va tutto bene, abbiamo superato brillantemente 15 giorni. Ah, quindi la vacanza vi è servita? Esatto, inspiegabilmente. Oh. Io sono partito pensando che ci saremmo ammazzati dopo 2 o 3 giorni, e invece, incredibile, è andato tutto bene, non abbiamo neanche quasi mai litigato. Benissimo, bella, questa è una bella esperienza, bene, sì, che serva anche agli altri. Grazie mille, ciao Alessio. Ciao. E la storia, che cosa ci racconta delle coppie? 18 agosto 1572. Francia. Enrico di Borbone sposa Margherita di Valois, figlia di Caterina de' Medici ed Enrico II di Francia. Lo stesso Enrico chiederà lo scioglimento del matrimonio nel 1599. Più crisi di così. 18 agosto 1201. Viene fondata la città di Riga in Lettonia, la meta più ambita per l'addio al celibato. Comincia forse da lì a incrinarsi qualcosa? 18 agosto 1955. In mezzo a tante coppie che scoppiano, ne nasce una. Che Guevara si sposa con Hilda Gadea. Dal matrimonio nascerà Hilda Beatriz. Agosto, tecniche di sopravvivenza, si parla di coppia. 800 24 00 24 per parlare con noi. Abbiamo sentito degli ascoltatori che hanno avuto esperienze diverse. O 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ne arriva uno che dice: appena saliti sul traghetto per la Sardegna ho mollato il mio ex ragazzo. Avevamo prenotato per 2 settimane in villaggio. Io sono scesa e ho chiamato un taxi direzione villaggio. Lui è rimasto sulla nave ed è tornato indietro. Quindi che cosa è successo quella volta che siete andati in vacanza? E come siete riusciti a risolvere o a trovare la vostra tecnica di sopravvivenza per non mollarlo, appunto, magari sul traghetto o in Croazia, come ci raccontava prima un ascoltatore. C'è uno studio di Arthur Aron del Dipartimento di Psicologia della Stony Brook University di New York, che studia da anni la complessità delle coppie dal punto di vista relazionale e biologico. E il dottor Aron dice che la coppia che funziona è quella che si lancia in attività condivise. Ma forse la colpa è mia. Forse non riesco a dare. Non riesci a dare? Allora perché non prendi? Darò no, io. No, sono pronta per prendere. Allora tu dai e io prendo. Vedi, io non posso prendere. Vedi, io sono uno che può prendere solo se c'è un altro che dà. Già, ma io non so dare, mi dispiace. Beh, senti, se prendessimo tutte e due. Ah, no, grazie, non posso prendere. Il fatto è che se anche riuscissi a prendere, non so se poi sarei più capace di dare. Sì, a me piacerebbe dare se solo tu prendessi. Non posso prendere, non so come posso aiutarti, veramente. Vedi, prendendo tutte e due, entrambi. Ti ho detto che non posso prendere se non posso dare. Non potremo andare, è inutile, Pilli. Mi dispiace. Addio. Scusa se ti ho ferito. A volte anche la condivisione può essere inutile. I film di Woody Allen che stiamo mandando, che ci chiedono alcuni sms, alcuni di voi quali sono Amore e Guerra, Il dittatore dello Stato libero di Bananas e Io e Annie, sono diversi film. Comunque ci sono anche dei professionisti che vi possono suggerire delle strategie per uscire dalla vacanza, con lui o con lei, senza farvi troppo del male. Ne parliamo con la dottoressa Milena Stojković, sociologa e mediatrice familiare, che si è inventata la prima agenzia italiana di divorce planning, che si chiama Ciao Amore. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci racconti un po' questa idea della prima agenzia di divorce planning. Noi di solito abbiamo in mente gli wedding planner, ma cioè, esiste anche il divorce planning? Beh, sempre più coppie attraversano i momenti difficili, i momenti di crisi, e quindi ho pensato che sarebbe stato opportuno offrirgli una serie di servizi, a cominciare dal consiglio legale, finanziario, dal supporto psicologico, per aiutare queste persone non soltanto a salvare il proprio rapporto, quando questo si può fare, ma anche a separarsi in modo sereno e civile. Perché succede sempre, purtroppo succede sempre il contrario, vero? Sì, beh, è molto facile chiamare al primo problema gli avvocati, quindi si possono fare tantissime cose prima di arrivare alle soluzioni drastiche. E quindi Ciao Amore si occupa di fare questo, proprio di accompagnare la coppia verso una soluzione che sia appunto civile, come diceva lei, o magari a nessuna soluzione, ma a risolvere, certo, il problema. Bene. Sì, anche a salvare il rapporto, quando questo è possibile. Certo, e come operate solitamente? Siamo un team di avvocati, mediatori familiari, psicoterapeuti di coppia, psicologi, sessuologi, e insieme, in sinergia, cerchiamo di aiutare queste persone a superare i loro problemi e a risolverli. Certo, ma le è mai capitato, per esempio, che proprio alla fine dell'estate o alla fine di una vacanza ci sia un aumento di richiesta? Perché poi si sta vicino, come si diceva, e non so, si arriva alle cozze, no? E la coppia sembra scoppiare proprio in vacanza. Le è capitato di avere magari un aumento di persone? L'anno scorso, proprio il settembre e proprio gennaio, sono stati i mesi nei quali si sono rivolti a noi più clienti, dopo le vacanze estive e dopo le vacanze natalizie. Certo. Però non lo potrei proprio collegare a dei periodi di vacanza. Cioè, i periodi quelli un po' problematici sono quelli dove si passa moltissimo tempo con la persona, e quando i rapporti non sono al 100% coinvolgenti, passionali, pieni di amore, quando ci sono dei piccoli problemi, questo fattore tempo può giocare dei brutti scherzi. Naturalmente. Perché ecco, siamo abituati a vedere comunque il nostro partner poche ore la sera oppure la mattina prima di salutarci, prima di andare al lavoro. Lo stesso il rapporto con i figli che vanno a scuola durante l'anno, invece d'estate siamo tutti insieme appassionatamente magari in una situazione dove non abbiamo tutte le nostre comodità legate alla nostra casa, quindi magari anche in una stanza dell'albergo che ci immaginavamo un po' più grande, un po' più comoda, e quindi possono nascere tanti malintesi. Però ecco, il consiglio che posso dare a tutte le persone che ecco, infatti, in questo momento si trovano in vacanza, la sua tecnica di sopravvivenza per noi, mi dica. Ecco, è questa, non è facile questa tecnica, però funziona. Allora, invece di pretendere, cominciare a dare ascolto, essere un po' più flessibili, dare amore, quindi proprio invertire questa cosa. No, io pretendo i miei 5 minuti di vacanza, 5 giorni. E invece no, che cosa posso dare io a questa famiglia? Che cosa posso offrire al mio compagno, alla mia compagna? Perché stare agendo in questo modo? Perché dietro ogni reazione negativa e magari aggressiva c'è una paura. Allora bisogna un po' girare il ditino che di solito puntiamo sempre verso l'altro, un po' anche verso di noi, e cercare di capire in che misura anche noi siamo complici di questa situazione che si è creata, magari non del tutto positiva. Certo, beh, io la ringrazio tanto. E dove la possiamo trovare? Dove c'è Ciao Amore? Allora, Ciao Amore è online, ciaoamore.info, oppure siamo a Roma, siamo per ora a Trieste, a Vicenza, a Bassano del Grappa e prossimamente a Genova e a Bari. Beh, grazie mille dottoressa, allora buone vacanze. Buon'estate. Buongiorno. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:49, stiamo parlando di rapporti che in estate possono scricchiolare, di vacanze che possono essere compromesse dalla persona che ci siamo portati in vacanza, e quindi le nostre tecniche di sopravvivenza, nostre e vostre ovviamente. 800 24 00 24 per parlare con noi, o 349 238 6666 per i vostri messaggi. Una notizia ormai risaputa, ma che fa sempre bene ricordarlo: un matrimonio che funziona fa bene alla salute. I ricercatori dell'Università di Chicago hanno scoperto che chi si separa ha il 20% in più di malattie croniche, come diabete o malattie cardiache, rispetto a chi rimane sposato. Perciò fatelo almeno per il cuore, inteso se non altro come muscolo di rimanere insieme, perché l'importante non è finire, ma semmai è non finire. Sopravvivenza per chi è in vacanza e non sa come gestire l'altro o l'altra che si è portato in vacanza. Quindi oggi si parla di incubi in vacanza, con storie d'amore che finiscono o che sono difficili da gestire. Prima, mentre andava la canzone, dalla regia mi dicevano, Carmelo mi diceva, i primi 2 giorni della mia vacanza di solito con mia moglie sono un disastro, devo stare zitto, mandare giù per 2 giorni e poi tutto si sistema, tutto va bene, perché aggiunge, voi donne siete insopportabili in vacanza. Non lo so, anche i 2 ascoltatori di prima erano 2 maschietti e non siamo riusciti a chiamare Paolo, Martino, Alberto, Ferdinando e Marco, che ci volevano raccontare le loro storie di incubi in vacanza. Chissà perché tutti maschi, tutti uomini, che cosa succede in vacanza? Qual è il problema delle vacanze per queste donne, insomma? Ma abbiamo sentito le vostre tecniche, quelle dei nostri ospiti, e adesso arrivano le nostre tecniche di sopravvivenza. Controllate sempre la carta d'identità di chi vi siete portati in vacanza. 2. Se non ci sono scambi di persona, una cosa insopportabile al giorno la si può concedere. 3. Se le cose insopportabili vanno da 2 a 4, cominciate a dare segni di insofferenza. Se superano le 5, ci sta la piazzata. 4. Prima di chiamare il vostro avvocato, pensate che le vacanze durano in fondo solo alcune settimane l'anno. 5. Non sottovalutate il ritorno economico di avere proprio lui o lei che vi aspettano a casa. È certamente un buon incentivo a fare più straordinari al lavoro. Beh, anche questo rapporto, il nostro intendo, per oggi è arrivato alla fine. Ma cosa c'è da fare stasera per chi magari vuole recuperare una relazione? Arriva a Bertinoro, in provincia di Forlì, il Cinema Divino. Cinema Divino è questa rassegna di film nelle cantine, che si possono vedere nelle cantine dell'Emilia Romagna. È alla sua 7ª edizione e stasera danno Soul Kitchen di Fatih Akin alla cantina Giovanna Madonia. Per informazioni www.giovannamadonia.it. È consigliabile la prenotazione per appunto andare in cantina, degustare i vini e vedere il film. Quindi il numero di telefono è 345 95 200 12. Con solo 10 euro c'è il costo del biglietto, l'ingresso, ci si può vedere il film, c'è la visita guidata alla cantina e si possono assaggiare 3 calici di vino. Ma chissà che Bacco non aiuti in questo caso. Oppure Fiorella Mannoia, il 18 di agosto, cioè stasera, a Sabaudia, all'Arena del Mare, col sottofondo magari di Quello che le donne non dicono, vi potete abbracciare e chissà che non si risolva la situazione. Beh, io vi aspetto domani con un tema che vi sembra che può sembrare che riguardi solo alcuni di voi, ma può tornare utile, utile a tutti, ed è tecniche di sopravvivenza per chi compie gli anni in agosto e non sa come organizzare una festa. Beh, adesso mi stanno dicendo che stanno chiamando le donne, Carla, Sara, Luciana e Annalisa, e si sono ribellate al fatto che chiamavano solo gli uomini per lamentarsi di quanto le vacanze possono essere difficili di fianco al proprio compagno e alla propria compagna. Ringrazio in redazione Vittoria Mussini e Laura Faggin e Carmelo Lauricella in regia. A domani. Uno va da uno psichiatra e dice: dottore, mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina. E il dottore gli dice: perché non lo interna? E quello risponde: e poi a me le uova chi me le fa? Beh, credo che corrisponda molto a quello che penso io dei rapporti uomo-donna, e cioè che sono assolutamente irrazionali e pazzi e assurdi, ma credo che continuino perché la maggior parte di noi ha bisogno di uova.